alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. Dopo un mese di guerra nel deserto, davanti a Tobruk, il tenente medico del someggiato andò a trovare il collega dell'altro reparto, schierato dietro il 26esimo reggimento a circa 2 chilometri. Partì con l'autoambulanza, erano le 10 del mattino. Il sole rendeva più cupi i magri sterpi che sono sparsi per ogni raggio del deserto. Percorso 1 chilometro dentro l'uadi, letto di un favoloso torrente trasformato in una pista polverosa, il paesaggio si aprì. Apparve una distesa bianca, come di ossa, che arrivava fino al mare. Dall'orlo laggiù si alzavano i pennelli di fumo delle batterie inglesi che sparavano. Le piccole nubi che si alzavano sul terreno occupato dai nostri erano i colpi in arrivo. L'autoambulanza si fermò davanti al reparto carreggiato della 31esima sezione di sanità. Le tende fino a metà erano incassate nel deserto per difenderle più che era possibile dalle artiglierie. Intorno alle tende non c'era nessuno. Il tenente, che durante il viaggio era stato al finestrino e si era a lungo specchiato in quel paesaggio senza piante, si sentì come disceso da un altro mondo. Antonio, l'attendente del collega, si eresse sull'orlo di una buca e, una volta visto il tenente, stette a guardarlo, muto. Quando i due reparti della sezione vivevano insieme nella lontana oasi di Sorman, tutti erano in reciproca confidenza, ognuno sapeva dell'altro. Ora gli occhi di Antonio sembrava elencassero quel che avevano appreso in quel primo mese di guerra, che c'era la morte, che anche da loro poteva venire, che erano giovani e non la volevano, che l'Italia era un paese ormai perduto per loro. Infine Antonio fu diritto davanti al tenente e fece col braccio un gesto in una direzione, aggiunse che era là il suo collega, che si mettesse presto dentro la buca perché i proiettili potevano arrivare da un momento all'altro. Il tenente, dietro l'indicazione di Antonio, scese una scaletta di legno e fu in una piccola baracchetta più che a metà affondata nel sassoso deserto marmarico. Il collega, il tenente Zolise, che era sdraiato sul lettino, vedendo l'amico si alzò, esclamando festosamente. I due giovani medici, benché già nell'oasi di Sorman si fossero trovati diversi per cultura e ambizione, ora incontrandosi nel deserto e dopo un mese di continue e dolorose vicende, che quali medici erano costretti ad affrontare, si abbracciarono fraternamente. «Siete più esposti qui?» disse il tenente cercando di tacere la commozione. «Abbiamo dovuto fare le buche», rispose Zolise. «Scoppiano sempre i proiettili qui intorno». Era intanto sceso nella baracchetta un soldato, che era il telefonista del reparto, e aspettava che i due tenenti si accorgessero di lui per parlare, ma non ebbe pazienza. Si rivolse a Zolise e «Signor tenente, lo vogliono al comando di divisione. Han telefonato che vada subito». «Oh», disse Zolise, «non sei neppure arrivato e mi chiamano al comando, ma torno subito, aspettami. È qui dietro, a pochi passi, farò presto». E staccò da una specie di sedia al cinturone. Alla svelta se lo agganciò. Ripeté mentre si accingeva a salire la scaletta. «Aspettami, torno subito. Se viene qualche ferito, sbrigalo tu». «Sì, sì, stai tranquillo», rispose il tenente che con la venuta del telefonista gli si era attutita la commozione. «Stai fuori quanto vuoi. Ho detto al capitano che ritorna a mezzogiorno. Se viene qualche ferito, ci penso io». Zolise partì. Il tenente rimase solo nella baracchetta. Si sdraiò sul lettino. Le batterie avevano smesso di sparare. Il silenzio si era fatto più grande. Il tenente salì sul deserto. Mentre contemplava la bianca distesa che arrivava fino alla costa, distinse che partiva laggiù, dalla nostra linea, un automezzo. Doveva essere un ovunque. Sembrava un giocattolo che annaspava sul deserto. Era diretto alle retrovie. Il suono del motore arrivava argentino, stranamente infantile. Il tenente si mise a girare per l'accampamento. La parte più alta delle tende, piantate nelle buche, spuntava a forma di piramide. Passando si sentiva il mormorio dei soldati che dentro tra loro parlavano. Dalle aperture delle tende i soldati, vedendolo passare, lo salutavano con esclamazioni sorprese. il tenente parlò con qualcuno. Ebbe l'impressione che i soldati aspettassero con timore qualche cosa che non si doveva dire. Gli parve che le voci avessero un tono diverso dal solito. Tornò alla baracchetta. Di nuovo si sdraiò sul lettino. Udì più limpido il suono dell'automezzo. Quel suono era bambinesco. Quasi all'improvviso si fece acuto e si spense vicinissimo. Il tenente salì per sentire che volevano. L'ovunque era fermo davanti alla tenda ricovero, a pochi passi. «Che c'è?» domandò. «Un ferito, signor tenente», disse l'autista. Il tenente andò dietro l'automezzo per vedere. C'era un caporale seduto su una cassettina che aveva tra le braccia un giovane pallido col petto nudo. Il terzo soldato, mentre il tenente si era affacciato, stava scendendo, disse con voce che voleva essere spavalda: «È andato?» Il tenente domandò: «È morto?» «Credo di sì». Il tenente montò su e si avvicinò al ferito. Il caporale, che l'aveva tra le braccia, lo scostò da sé perché il dottore lo potesse vedere meglio. Il tenente prese tra le mani il polso del ferito. Non lo sentì battere. Quel soldato sembrava dormisse. Sul petto nudo, sul volto, sui capelli, sui calzoni corti che lo ricoprivano, era sparsa la polvere impalpabile del deserto. «Dov'è ferito?» domandò il tenente. «Qui», fece cenno il caporale che ancora lo teneva tra le braccia, e indicò sul petto un piccolissimo taglio che aveva anch'esso i margini spolverati dalla finissima sabbia. «Gli deve essere arrivata al cuore, una piccola scheggia», aggiunse il caporale. Il tenente guardò di nuovo il volto del soldato. Sembrava dormisse. Anche sulle ciglia quella sabbia finissima. «Sdraialo, gli voglio sentire il cuore», disse il tenente. Il caporale eseguì. Lo distese sul tavolato dell'autocarretta. Il tenente si mise in ginocchio e posò l'orecchio sopra il petto del soldato. Ascoltò come in un dopopranzo estivo il silenzio di una valle. Il tenente si alzò. «Lasciala stare lì», disse. «È inutile scenderlo». Lo riguardò. Doveva avere 19 o 20 anni. Il tenente si rivolse al caporale, che di nuovo si era seduto sulla cassetta. «Era un tuo amico?» «Sì», disse il caporale e non aggiunse altro. L'altro soldato che era sceso lo si udiva chiacchierare con i soldati della sezione dentro la tenda ricovero. Anche il tenente scese. Si avviò alla baracchetta del suo collega. Stava per entrare quando qualche cosa all'improvviso gli si presentò. Non aveva capito se era morto. Indugiò dietro quell'idea, sulla porta della baracchetta. E all'improvviso, come quando il vento agita i rami di tutte le piante, sorsero e batterono in lui una moltitudine di immagini. Se non era morto, e lui lo giudicava morto. Poi si svegliava da quel sonno. Lui lo aveva detto morto. Il tenente si accorse che non riusciva a capire l'esistenza della morte. Il ferito era un ragazzo che nasceva allora. Il tenente rimase ancora sulla porta in indugio, come nel preciso confine tra realtà e irreale, quando una nuova furia di immagini si presentarono. Viene sotterrato e in quel momento si sveglia. «Mi colperanno. Non l'ho curato, non l'ho guardato. Non so giudicare se uno è vivo o è morto. Mi condanneranno. Sarà impossibile difendermi. Un ragazzo». Precise, particolareggiate, furono le figure del processo, gli atti dell'accusa. Il tenente sentì dentro di sé lo sgomento come un peso, qualcosa di fisico. Lentamente, mentre quell'afoso e segreto immaginario continuava, si voltò. Di nuovo si diresse verso l'autocarretta dove c'era il ferito. I due soldati erano come li aveva lasciati, ambedue silenziosi. Il caporale seduto sulla cassettina, il giovane disteso sul tavolato. Guardò con una specie di debolezza. Ebbe timore che il caporale e i soldati vicini si accorgessero del suo stato. Montò sull'autocarretta. Come se fosse in uno stato normale, si sedette sul parapetto e con voce vigilata si mise a parlare col caporale. Intanto guardava il soldato disteso. Poi all'improvviso, come per caso gli fosse venuto in mente, cambiando argomento, pronunciò: «Una piccola ferita così, che immaginerebbe?» E si chinò a toccare il petto del soldato. Voleva sentire se diveniva freddo. Voleva di nuovo visitarlo. Non sentì alcun calore, non pareva freddo. Il tenente si mise in ginocchio, poggiò l'orecchio sul petto del soldato dalla parte del cuore. Sentì con l'orecchio prima quell'impalpabile sabbia del deserto e di nuovo il silenzio della valle. una valle d'estate, nel pomeriggio. Si alzò, facendo il semi indifferente, disse: «Povero giovane», scese dall'autocarretta. No, non riusciva. La realtà sfuggiva, non riusciva ad avere l'idea delle cose, non sapeva cos'era la morte. Il soldato che guidava l'autocarretta domandò: «Signor tenente, cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo scendere?» Il tenente, riunendo tutte le sue forze, rispose: «Non sono io il medico della sezione. Ora ritorna il tenente, aspetta un momento». E si allontanò di nuovo verso la baracchetta, mentre un grido diceva dentro di sé: «Perché? Perché? Cosa ho? Cosa ho? Se non è morto, perché non lo curo?» Intanto, cercando di trovare in nuovi dati fisici una via di salvezza, si ricordò delle pupille. «Devo guardarle. Perfino quelle mi sono dimenticato». E nello stesso tempo lo perseguitava l'interrogativo: «Se non è morto, io lo dichiaro morto». E gli si ingigantiva lo spettro di uno sventurato futuro. Con violenza si voltò, ripercorse il terreno fino all'autocarretta, montò. Il caporale era allo stesso posto, così il giovane sdraiato. Il tenente, mettendosi di nuovo a sedere sul parapetto, domandò: «Siete dello stesso paese?» «No, ci siamo conosciuti in Libia». E il caporale non aggiunse altro. Vi fu qualche secondo di silenzio. Poi il tenente, dicendo, come volesse lamentarsi genericamente, stese le mani verso le pupille del soldato. Poiché rimanendo seduto non ci arrivava, si staccò dal parapetto. In fretta si accoccolò vicino alla testa del giovane sdraiato. Gli aprì le palpebre. Gli occhi erano azzurri. Il tenente li toccò col polpastrello dell'indice. Non reagivano. Si è morto, si disse. Di nuovo toccò le pupille. In fretta scese. Gli venne in mente di fuggire da quel luogo. Un pianto disperato si agitò nel suo animo. «Tornasse Zolise!» esclamò dentro di sé, come a chiedere pietà. Andò dal telefonista. Gli disse: «Telefona al tenente, digli che c'è da fare qui». Il telefonista eseguì. Dal comando di divisione una voce rispose che veniva subito. L'autista dell'autocarretta si avvicinò al tenente e disse: «Signor tenente, allora, se è morto lo lasciamo qui, devo tornare in linea». «Aspetta un momento, non sono io il dirigente del servizio sanitario, il tenente viene subito». Si avvicinò di nuovo all'autocarretta, ma non montò. Si vergognava a visitarlo ancora. Rimanendo così fuori dall'automezzo, guardò il petto nudo del giovane soldato, si aveva leggeri movimenti per il respiro. Urlò nel silenzio dentro di sé: «Ma sì, è morto, cosa ho, cosa ho?» Si allontanò, scese nella baracchetta, rimontò su, tutto più vivo continuava. Con ira andò dal telefonista: «Perché non viene il suo tenente? Io devo partire, ho da fare!» Il telefonista lo guardò stupito, perché dal tono della voce gli era sembrato che il tenente avesse qualche cosa che non andava. Zolise infine arrivò. Il tenente, appena lo vide, fece qualche passo verso di lui. «Che c'è?» domandò Zolise. «È arrivato un ferito», rispose il tenente. «Anzi, mi pare che sia morto». «Come?» disse Zolise. «È morto o non è morto?» «Non so. Sì, è morto. Guarda tu, guarda. L'ho appena visto. Devo andare, ho fatto tardi. Mi aspettano, da fare laggiù». «Come? Non dovevi restare fino a mezzogiorno?» «No, da fare. Ti saluto, mi aspettano. Buon lavoro, addio. Ti verrò di nuovo a trovare. Addio, buon lavoro». Senza voltarsi, il tenente si diresse alla sua autoambulanza. L'autista, che si era rifugiato in una tenda vicina, subito comparve. Il tenente gli disse di mettere in moto, che si partiva. L'autoambulanza si avviò. Il tenente si affacciò al finestrino per salutare il collega. Zolise, che sollecitato dall'autista, era salito sull'autocarretta dove c'era il giovane soldato ucciso dalla piccola scheggia e ora ne stava discendendo. Ancora stupito dalla improvvisa partenza dell'amico, rispose al saluto. Il tenente voltò la testa verso il finestrino. Era già liberato. La tempesta era passata. Un prepotente senso di letizia distruggeva il recentissimo passato. Respirò profondamente come per ringraziare tutti. Gli stava nascendo un pianto di consolazione. Si sentì stanco e insieme leggero, come dopo una fatica, che però è finita e ora c'è il compenso. Rapidamente, mentre fuggiva, giudicando ciò che era stato, gli parve impossibile che tutto ciò si potesse ripetere. Il tenente nel dormiveglia udì la voce di Liberato. «C'è la carretta, signor tenente!» Il tenente si alzò. Si vestì facilmente, nel deserto si fa presto, ma si infilò anche il cappotto perché era notte. Le notti in Libia sono umide, vi risplende una luna immobile. La nebbia, distesa in modo uniforme, vela il cielo. La carretta era già ferma davanti alla piccola tenda chirurgica. L'infermiere Ghezzi si affaccendava che il ferito, giacente sulla barella, fosse trasportato senza scosse. «Fate piano, reggi qui», parlava con voce limpida. La barella carica del ferito penetrò nella baracchetta chirurgica. Anche il tenente medico entrò. Un infermiere stava accendendo le lampade ad acetilene che dopo poco che sono accese oltre che luce danno calore. La baracchetta, così chiamata, era una piccola tenda che aveva all'interno una tela celeste. Da più di un anno si spostava per il deserto sirtico e marmarico seguendo la guerra. La tela esterna era alla base come mangiata dai topi. «Chi è?» mormorò il dottore. Ghezzi, che stava leggendo il tabellino di accompagnamento, rispose: «Tenente Migliorini, ferito alle gambe, grave». Il ferito era avvolto da una coperta, dalla quale fu tolto. Ora era sdraiato sul lettino chirurgico. Aveva tutte e due le gambe fasciate dal calcagno alla radice della coscia. La garza era bianca, immacolata, solo in un punto era macchiata di sangue. Il ferito guardava il medico e gli infermieri. Era un giovane di meno di 30 anni. Si volse al dottore che cominciava a sfasciarlo e, dandogli del tu, poiché aveva visto sul cappotto l'unica striscia di sottotenente, disse: «Non mi far soffrire, non c'è più niente da fare». Anche gli infermieri furono colpiti dal timbro della sua voce. «Ora guardiamo», gli sussurrò il dottore come a se stesso. Poi aggiunse con tono affettuoso: «Lasciami vedere». Continuò a sfasciarlo. Come le gambe si denudavano, si vedeva che erano spappolate. Due infermieri, ciascuno a un lato del ferito, tenevano sospeso un lume sopra le gambe. Un terzo infermiere teneva sospeso un lume sopra la testa. Il dottore esclamò: «Non c'è il laccio! Non ti hanno messo il laccio!» «L'ho tolto per la strada. Avevo troppo dolore. Non mi far soffrire ancora». «Vedrai che ti salvi. Sei ferito solo alle gambe», disse il medico, continuando a sfasciare. «Ho sete», disse il ferito. Il dottore pensò che era la fame d'aria, come l'hanno i dissanguati. «Prepara la morfina, Ghezzi». Il ferito disse: «Fai quello che devi fare, ma io muoio». «Coraggio», disse il dottore, poi ripeté: «Coraggio». «Un altro laccio, Ghezzi», disse ora il medico con una strana ira, vedendo che stava per rinchiudere un sangue che se n'era già andato. Inaspettatamente il ferito si contrasse dal dolore e con quella sua voce profondamente musicale disse: «Presto, presto». «Coraggio, coraggio», ripeté quasi meccanicamente il medico senza guardarlo. Ma il ferito era completamente sfasciato. Quando contraeva per il dolore i muscoli della coscia, si vedevano muovere delle schegge acuminate di ossa. Le ferite non davano più sangue, perché il sangue era pressoché tutto uscito. «Ho sete», disse il ferito. «Ho un peso qua, sul petto. Non mi riesce a respirare fino in fondo». «Coraggio», ripeté il medico, intento a quel che doveva fare. «Ghezzi, la fleboclisi, presto!» Con il cognac, ogni tanto, un infermiere inumidiva le labbra al ferito. «Voglio far testamento», disse poi quasi tranquillamente il ferito. «Ciardella?» accennò appena con la voce il dottore. Lo scritturale Ciardella prese il registro dei chiedenti visita e vi pose sopra un foglio bianco. Si mise vicino al ferito. «Ho un dolore», disse il ferito al medico che continuava. «Ho un dolore impossibile, non mi far soffrire». Poi stette un momento come in ascolto, a pensare a qualche cosa. Il polso rapidissimo fuggiva. Il volto del ferito e il torace erano umidi di un velo freddo di sudore. Cominciò. Thank you. lascio le mie sostanze ai nipoti. Continuò, come fosse in un ufficio con mobili pesanti, il tappeto sotto il tavolo davanti al notaio, elencò ciò che doveva. Nella baracchetta chirurgica si sentiva solo la sua voce. Mentre il testamento era per finire, entrò nella baracchetta il cappellano del reggimento a cui apparteneva il tenente ferito. Il ferito ringraziò il cappellano di essere venuto. Il ferito gli sussurrò che voleva pregare, ma non si ricordava le preghiere. Il cappellano circondò con un braccio la testa del ferito, avvicinò il suo viso a quello del ferito e cominciò a dire le parole. Il ferito le ripeteva. Poi il ferito porse al cappellano una catenina che aveva al collo. Gli disse, quando ritornava in Italia, di portarla alla sua fidanzata. Aggiunse, «Dille che preghi per me». Poi ripeté, «Non riesco a respirare, è l'aria che mi manca». Il dottore, vedendo l'inutilità, anche lui era in ascolto, senza fare nulla. Entrò nella baracchetta un soldato che era l'attendente dell'ufficiale. Era ferito a un braccio, ma non grave. Poiché durante la medicazione il soldato si lamentava, il tenente ferito lo incitò a sopportare. In uno di quei silenzi che periodicamente si formano nella baracchetta, il tenente ferito volle salutare tutti insieme quelli che erano lì. Si capiva che voleva fare tutto ciò che doveva prima di andarsene. Disse, «Arrivederci». Poi rimase sospeso. Cercò il nome con cui chiamare tutti, che non gli correva sulle labbra. Con una sottilissima e insieme tenera ironia continuò, e sembrò che avesse riassunto in quella parola tutto il suo destino. «Arrivederci». Camerati. Il pallore che ora lo copriva pareva divenuto più solido. L'infermiere a capo del lettino continuava a tenere alzato sulla sua testa il lume. Entrò nella baracchetta chirurgica il suo capitano di compagnia, col quale si salutarono. Il capitano non riuscì, di fronte a quella compostezza, a trovar parole. Entrò nella baracchetta il capitano medico che comandava quella sezione di sanità. Per il brusio che si era levato a ogni arrivo, poiché dormiva in una tenda non lontana da quella chirurgica, si era svegliato ed era venuto a vedere cosa c'era. Era un uomo di circa 40 anni, con gli occhi grigi. Domandò al tenente medico che gli rispose e gli aggiunse sottovoce, «Sta per morire». Il capitano medico, più che passavano i mesi di quella vita del deserto, più era vittima di angosce di assurda origine. Un'inezia lo precipitava in un infantile e profondo terrore. Gli sorgevano spaventose minacce, spettri. Compiva allora atti automatici, poteva ugualmente fare l'eroe o le azioni più vili. Era appunto per questa ragione che il tenente medico, che lo conosceva, non l'aveva fatto svegliare. Il capitano medico, vedendo all'improvviso la morte, davvero perse la testa. Fu travolto da un'assurda paura. Come difesa automatica non trovò che allontanare da sé quello spettacolo. Deve essere trasferito, disse. Il nucleo chirurgico dove avrebbe dovuto essere trasferito il tenente era da Croma, 5 chilometri di pista. Lo scritturale Ciardella guardò il capitano con interrogazione se davvero doveva fare la bassa di passaggio. Il capitano ripeté, «Deve essere trasferito, deve essere trasferito!» Lo scritturale preparò la bassa di passaggio. Quel trasferimento era contro la legge medica e umana. Il tenente ferito capì che erano per trasferirlo in un altro ospedale e pregò il capitano medico, comandante la sezione di sanità, di lasciarlo morire lì. Il capitano disse, «Non ti trasferiamo, non ti trasferiamo». E insieme disse, «Bisogna tentare, bisogna tentare». Il capitano ripeteva, ripeteva. Si era a questo punto messo sulla porta della baracchetta chirurgica, per quanto possibile lontano dal ferito e a lui come attanagliato. aveva sul volto un pallore spento che insieme al grigio degli occhi e alle labbra gonfie che aveva e che durante tali paure solevano pendere come morte, dava la sensazione di un enorme smarrimento. Il tenente ferito si volse al tenente medico e come volesse ritornare a cose pratiche gli disse: «Non mi far avvolgere in un telo di tenda, fammi fare la cassa». Il dottore gli sfiorò la guancia. «Che dici? Vedrai che ci rivedremo». Il tenente ferito aggiunse: «Fammi morire qui, non per il deserto, su un automezzo». Di solito il tenente, che aveva più volontà del capitano comandante la sezione, si imponeva e in sostanza comandava, spesso anche con le minacce, ma quella notte, sia per vedere in quale annichilimento era caduto il capitano, sia perché anche in lui, col susseguirsi dei mesi nel deserto, si fosse esaurita la volontà, e particolarmente quella notte, non seppe voler nulla. Le cose si condussero automatiche. Si udì il rumore dell'autoambulanza che si fermava davanti alla baracchetta chirurgica per portar via il ferito. Furono alzati i teli che facevano la porta. Era nata l'alba. Il deserto si stendeva morbido. Lontano si intravedeva una rugiada rosa. Dopo circa un'ora l'autoambulanza ritornò. Il tenente era morto al terzo chilometro della pista. Il tenente medico telefonò al reggimento presso cui il tenente era distaccato per fargli fare la cassa. Il tenente Migliorini è ora sotterrato, se nessuno ha fatto scherzo alle sue ossa, davanti a Tobruk, al 12° chilometro di una linea che parta dal forte Pilastrino e sia perpendicolare all'equatore, nel cimitero della divisione Pavia. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli, ad alta voce @rai.it.